Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Giorgio Peverelli. Tre generazioni di verde. Di Irene Privitera. Io sono Giorgio Peverelli, sono presidente del gruppo Peverelli, l'azienda Peverelli che è nata nel 1890, quindi quest'anno esattamente fa 122 anni, la sua fondazione. Giorgio Peverelli ha 75 anni ed è il più giovane dei tre fratelli che oggi gestiscono l'azienda di famiglia. Terza generazione per un'attività che si occupa del verde urbano in tutte le sue declinazioni. Verde pubblico e verde sportivo, industriale e commerciale, studio di giardini e pareti verticali. Oggi lavorano nelle città italiane e nei deserti dell'Arabia Saudita, ma la loro storia nasce in Lombardia alla fine dell'Ottocento, nell'epoca in cui il verde era quello delle dimore patrizie e delle famiglie nobili. Già allora, nel 1890, quando le persone che l'hanno fondata, i nonni nostri, erano già persone che molto richieste, in modo particolare in Lombardia, dalle ville patrizie. Da lì nasce la Peverelli, con questa volontà dei due fratelli Francesco e Giuseppe Peverelli. Quindi fanno il primo vivaio, le prime serre, le prime colture di piante sia in vaso che anche da vivaio, e continua la loro attività fino agli anni circa 60, 1950, 50-60. Nei decenni 50-60 del secolo scorso, ai fondatori della Peverelli subentrano Serafino, padre di Giorgio, e il fratello Angelo. Ampliano il settore vivaistico e lavorano anche in Piemonte, Liguria, Toscana. È inoltre il periodo delle prime piantagioni ai lati di strade provinciali e regionali. A distanza, di qualche anno, loro hanno ceduto un po' il passo alla terza generazione che siamo stati noi, allora Giorgio, Gaetano e Lanfranco Peverelli, e uno si è preso un incarico. Lanfranco la parte amministrativa, Gaetano la parte del vivaio, dove si è addirittura è diventato una cosa grandissima. Oggi il vivaio è circa 1 milione di metri quadrati in terreno coltivato ad alberi. Io ho preso invece la parte del commerciale e seguendo un po' la parte più degli architetti, in quanto già allora, avendo già scritto su diverse riviste, Casa Elemento Giardino, Villa Giardini, Casa Vogue, tenevo una rubrica sul giorno e anche sul Corriere, dove parlavo allora di ecologia, che allora era una parola scritta forse solamente sui vocabolari, ma di ecologia se ne faceva poca, però io ho sempre insistito, sempre creduto. Già allora parlavo di un verde diverso. E uno dei miei leitmotiv era: prima di reggere un muro, piantiamo un albero. Per i Peverelli il verde già allora non era un concetto generico. Il verde pubblico, quello sportivo, quello privato, quello ospedaliero, ognuno aveva una precisa funzione. Ogni verde aveva una sua classificazione e aveva la sua impostazione, che è una cosa importantissima. Perché l'albero non deve essere messo solamente perché è un elemento ornamentale, ma deve essere funzionale a ciò che comunque il perché viene usato. Potrebbe essere qualsiasi tipo di albero, la pianta più sempre da albero da frutta, per dire, alla pianta ornamentale o la pianta che possa creare una scenografia in un grande spazio. Abbiamo iniziato la progettazione, quindi studi con l'università, ma l'università non solamente lombarda, un'università a livello nazionale, dove in effetti queste persone venivano a fare sperimentazioni nei nostri vivai. Noi abbiamo detto: il nostro vivaio è la vostra sperimentazione, a dove potete fare bene il vostro campo sperimentale, che potete fare benissimo quello che voi altri avete bisogno. Da lì noi abbiamo avuto anche dei grandi vantaggi, in quanto abbiamo giustamente avuto l'opportunità di poter studiare con loro moltissime cose e quindi migliorarle, quindi essere i primi a recepirli e quindi andarle in questo caso poi a proporle a tantissime persone, privati ma in modo particolare a studi di architettura. 14 milioni di fatturato nel 2011 è una squadra che varia tra le 100 e le 120 persone. 25 circa gli impiegati tecnici, agronomi, ingegneri, architetti, paesaggisti. Ci sono poi il settore amministrativo e quello della ricerca. Geometri e periti agrari coordinano a loro volta le squadre che lavorano in Italia e nel mondo. Dalla sede storica a Fino Mornasco, provincia di Como, la Peverelli non si è mai spostata, ma è cresciuta lì dove è nata, con una superficie coltivata di 1 milione di metri quadrati. Siamo andati in Arabia Saudita, 60-70 persone a fare la casa del re di Arabia, diciamo gli anni 80-85, dove abbiamo fatto un grandissimo, immenso parco, sfidando l'ambiente, diciamo, che non era molto facile allora pensare, diciamo, gli anni 80, dire andare in Arabia Saudita dove c'erano 55 gradi di temperatura e dove comunque il verde poteva essere sofferente. E quindi poi noi abbiamo andato invece al deserto di Piave, abbiamo dato un abito nuovo, un senso a questo spazio. Me ne sono un po' innamorato del deserto perché in fondo ha un suo fascino. Noi abbiamo lavorato nel Kazakistan, ad esempio per il presidente del Kazakistan, e siamo andati con il nostro personale, siamo andati nel Qatar, stiamo attualmente partendo per andare in Grecia a fare un grossissimo lavoro con Renzo Piano. La grande soddisfazione che ho è quella di vedere che i grandi archistar hanno capito in fondo che il verde non è solamente un elemento, un qualcosa, oggi diciamo è la cornice di grandi quadri. Ad oggi la gran parte proviene dal lavoro svolto in Italia, ma la prospettiva nei prossimi anni è quella di invertire la tendenza. Dal 2010 al 2012 non è molto, è circa un 10-15%, lo diventerà invece, diciamo, appunto, acquisendo queste due commesse che abbiamo, che credo che definiremo la trattativa, addirittura, diciamo, addirittura del 50-55% nel fatturato, però che raddoppierà il nostro fatturato, quindi pertanto negli anni prossimi si vedrà un raddoppiamento nel fatturato a causa di questi grossi interventi che andremo a fare all'estero. La crisi economica si è fatta sentire anche in casa Peverelli, ma le continue innovazioni e le ricerche in campo sperimentale ne hanno attenuato le conseguenze. Dopo un 2011 positivo e la leggera flessione registrata finora quest'anno, le prospettive per il 2013 sono più che buone, grazie anche all'acquisizione delle commesse per l'Expo. L'anno scorso abbiamo avuto un aumento di circa il 24% sul fatturato dell'anno del 2010 ed è stato un anno buono. Quest'anno siamo leggermente sotto del 10%, ma non legato al non avere le commesse quanto al rallentamento che c'è stato nel settore edilizia. Quindi abbiamo, diciamo, un bel momento, direi degli ordini già acquisiti, moltissimi ordini già acquisiti, ma in questo caso non riusciamo a svolgere i lavori che potremmo svolgere in quanto, direi, c'è stato un rallentamento proprio nelle vendite, quindi un rallentamento anche, diciamo, nel nostro completare il nostro lavoro, che è una cosa molto importante. Le prospettive l'anno prossimo credo che siano buone, in quanto noi abbiamo oltretutto acquisito, diciamo, le due commesse molto importanti per Expo, cioè il verde di Expo, lo dico con una punta di orgoglio, quale tutto il verde, diciamo, di Expo sarà firmato Peverelli. E proprio in vista dell'Expo, l'ultima novità in ordine di tempo per Peverelli. Si chiama Team Zero, un progetto che riunisce nel valore comune della sostenibilità un gruppo di aziende italiane d'eccellenza per la progettazione e la realizzazione di padiglioni e spazi aperti in vista del 2015. Io sono stato un po' l'autore della fondazione, siamo i Team Zero. Questo è nato, questo raggruppamento, rete di impresa, dove ci sono appunto queste aziende, BB Italia, Guzzini, la 23, Legnolandia, la FGAT, diciamo, Meraviglia, Panzeri e Peverelli, che sono 8 aziende. Credo che, diciamo, siano tra le più importanti di ogni settore, a disposizione tutte le persone, tutti, diciamo, i paesi che verranno in Italia per Expo, e quindi daremo dalla progettazione alla costruzione, all'allestimento interno, diciamo, appunto, metodo proprio allestire come allestire gli uffici, allestire qualsiasi altra cosa, all'illuminazione, alla manutenzione per questi 8 mesi, diciamo, appunto, allo smontaggio, diciamo, di questi stand che verranno fatti e poi riportati nei paesi, diciamo, in cui ci vengono ordinati e rimontati come opere pubbliche, tipo scuole, asili, diciamo, appunto, e quant'altro, direi il paese ne vorrà usufruire. Oggi la parola ecologia è molto utilizzata e la gestione del verde è cruciale su una serie di temi di stretta attualità, dagli studi sul verde verticale sino alla progettazione delle nuove smart city. Le aree in cui sperimentare sono nuove, ma l'amore per il verde e la natura ha radici lontane. Mio padre diceva che sei un bambino troppo curioso. Quando ero un bambino a me piaceva moltissimo andare con lui quando tracciavo questi grandi parchi, perché la grande passione è di vedere esattamente come sviluppare, diciamo, appunto, questa attività, con quale passione già lui aveva e mi ha trasmesso poi. Quindi è stato un fatto, la sensibilità, diciamo, il ragionamento che faceva quando andava a mettere, direi, un albero importante, parlo di un ciglio del Libano, di una quercia, diciamo, di un grande faggio, che erano un po', diciamo, i cardini, cioè l'albero segnale che poteva venire in questo caso appunto in questi grandi parchi. Quindi ecco, ho cercato già da lì, diciamo, di incamerare queste notizie molto importanti. Poi con l'andare del tempo è chiaro che uno, diciamo, appunto, beh, si fa le proprie idee e va oltre, diciamo, appunto, quanto potrebbe essere quello che ha imparato, insomma, ecco. E credo che in fondo io ho sempre amato il mio lavoro. Io vado tutte le mattine al mio lavoro come se dovessi andare dalla donna che amo. Tu quando ami una persona, ami una donna, vai tutte le mattine a trovarla. Tu vai perché hai un dialogo con lei. Ecco, io dialogo con tutti i miei, diciamo, appunto, collaboratori e cerco di trasmettere a loro, diciamo, le stesse sensazioni che l'uomo può trovare, diciamo, nell'amore. I tre fratelli, Giorgio, Gaetano e Cesare Peverelli, sono cresciuti in azienda, così come i loro figli, ed il legame tra famiglia e lavoro è molto forte. Nel racconto di Giorgio Peverelli, l'azienda è come un membro della famiglia. Trasferire, diciamo, appunto, metto quello che tu sai agli altri. Io credo che sia la cosa più importante proprio questa. Anzi, io sto, credo che per Natale verrà fuori il mio libro, tutto il libro della mia vita, perché in fondo ho voluto lasciare una traccia di me stesso. Sono un uomo orgoglioso, ma se non c'è quello come base non c'è nulla, quindi la ricerca è un fatto molto importante e comunque in questo caso proprio arrivare, direi, a dare sempre il meglio di se stesso, ma non tenerlo dentro di noi, lo dobbiamo cercare di riversarlo verso gli altri, perché gli altri devono imparare e migliorare quello che noi abbiamo fatto, direi, nella nostra vita. Tra i progetti per il futuro, oltre alle prospettive legate all'Expo e ai progetti internazionali, anche l'ampliamento dell'offerta con la progettazione e realizzazione di accessori per l'arredo urbano. A portarli avanti sarà probabilmente la quarta generazione rappresentata da Emanuele, Roberta e Marco Peverelli. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.